Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Dall'Università di Düsseldorf arriva il gene che permette di mangiare senza ingrassare. Sarà finalmente risolto il problema dell'obesità? Il gene che ti lascia mangiare quanto vuoi è il titolo con cui il Daily Telegraph di Londra riassume la scoperta, frutto di ricerche di studiosi dell'Università di Düsseldorf e pubblicata sulla rivista Nature. La scienza ritiene da tempo che differenze genetiche siano responsabili dell'aumento di peso e ha individuato un gene particolare, noto agli studiosi della materia come FTO, quale principale sospetto. Le persone con una versione giudicata ad alto rischio di tale gene pesano mediamente 3-4 kg più di coloro che ne hanno una versione a basso rischio. Ma gli esperti non erano stati finora in grado di determinare in che modo una simile variante producesse la differenza, privilegiando teorie secondo cui il gene influenzava l'appetito e di conseguenza la quantità di cibo mangiato. Ora pare invece che il gene controlli il tasso di metabolismo degli individui. In esperimenti condotti su topi di laboratorio è risultato che gli animali completamente privi del gene rimangono magri, nonostante mangino grandi quantità di cibo e restino inattivi. La ricerca, guidata dal professor Ulrich Rutter dell'Università di Düsseldorf in Germania, suggerisce che i topini senza il gene bruciano energia più velocemente di quelli con una versione funzionante, ovvero attiva, del gene. La scoperta può avere importanti implicazioni per lo studio di malattie collegate all'ingrassamento. Le variazioni del gene FTO sono sicuramente associate all'obesità degli umani, dice il professor Stephen O'Reilly, esperto di metabolismo della Cambridge University. Ma fino ad ora non era chiaro come questa variazione genetica agisse sull'obesità. La ricerca tedesca dimostra che i topi senza il gene sono molto magri perché bruciano spontaneamente enormi quantità di energia. È uno sviluppo che può aprire nuove strade nella cura dell'obesità, secondo il dottor Rutter, autore della ricerca. Creando medicinali in grado di regolare l'attività del gene FTO, potremmo controllare il rischio di eccessivo ingrassamento. Anche se, aggiunge lo studioso, non tutti gli effetti dell'inibizione del gene sono ancora chiari. Potrebbero esserci, perciò, controindicazioni. Lo studio del perché si ingrassa e perché si rimane magri si avvale anche di un altro passo avanti, contenuto in un libro che riporta le ricerche condotte da uno scienziato inglese, il dottor David Stencil, direttore della facoltà di scienza dello sport alla Loughborough University. Nel suo volume, intitolato «Influenza della resistenza e dell'esercizio aerobico sulla fame», lo studioso ha scoperto che certe attività sportive, come il jogging, risultano nel desiderio di cibi che non fanno ingrassare, come la frutta, mentre altri, come il nuoto o il sollevamento pesi, creano un desiderio di carboidrati e cioccolata, che tendono ad aumentare il peso corporeo. A meno che, naturalmente, uno non sia così fortunato da possedere il gene che ti permette di mangiare quanto vuoi, senza ingrassare. Il sogno di generazioni di casalinghe disperate e fotomodelle nevrotiche, di pugili ossessionati dalla bilancia e fautori di diete di ogni genere. Chissà se un giorno, manomettendo con una pillolina il gene del metabolismo, potremo tutti riempirci di spaghettate a volontà, mantenendo la linea, proprio come il lui o la lei della nostra compagnia di amici che oggi ci fanno tanta invidia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Enrico Franceschini «Mangio tanto e non ingrasso», scoperto il gene anti-obesità, da Repubblica del 24 febbraio. In una stazione inglese, ai passeggeri in attesa di salire sul treno è proibito baciarsi, perché le loro effusioni potrebbero causare ritardi. Era un apostrofo rosa tra le parole t'amo ed è diventato un problema di circolazione. Va bene che gli inglesi sono flemmatici e pratici, ma quando è troppo, è troppo. Proibire i baci perché intralciano il traffico è un'idea che poteva venire soltanto a loro. Tra le lamentele dei commercianti, la compagnia Virgin Rail ha piazzato un cartello nella stazione di Warrington che ricorda vagamente Ghostbusters. Due bocche che si sfiorano e una bella striscia rossa. Stop! Baci proibiti, soprattutto in auto, davanti alla stazione. E arriveranno le multe per chi non rispetta il divieto? Chi vuole salutarsi prima di prendere il treno deve parcheggiare a pagamento e soltanto dopo può abbandonarsi alle emozioni, anche se non si perde spontaneità. Una decisione destinata a fare il giro del mondo e a far discutere. Forse non è un caso che Londra abbia perso il record del bacio proprio quest'anno a San Valentino. Glielo ha scippato Città del Messico, dove il sindaco, al grido di Bésame mucho, un bolero molto famoso nel 1940, ha incitato gli innamorati a manifestare in piazza tutto il loro slancio amoroso. Certo, il tipo di proibizione all'inglese ha una ragione nell'efficienza, non nella morale. Ma certo è un po' triste questo cartello, pensando a quello che succede a Kuala Lumpur, dove gli innamorati sono costretti a rifugiarsi in taxi perché le tenerezze in pubblico sono poco tollerate, o a Mumbai, dove un attimo di passione, un bacio di tipo cinematografico, può costare anche 1200 rupie, una ventina di euro, e si passa la notte in carcere, come criminali. Ci sono le ronde antibacio che lo scorso novembre hanno arrestato orgogliosamente un centinaio di coppiette. Per la verità, anche in Austria hanno provato a frenare l'escalation dei baciatori. Il preside di un liceo di Gunskirchen, disturbato dagli eccessivi apostrofi rosa, ha scritto una lettera per bacchettare studenti innamorati. Risultato? Una bagarre a livello nazionale con un curioso risultato. Dall'estrema destra ai verdi, tutti hanno difeso gli studenti con tanta voglia di tenerezza. Chissà perché nel bacio c'è sempre qualcosa che infastidisce, come se ricordasse che il mondo mutevole dei sentimenti può indurre in tentazione. E c'erano infatti quelli vietati ai minori, specialmente nei film. Perciò nell'italietta raccontata da Nuovo Cinema Paradiso, le criminali bocche che si uniscono vengono tagliate dalla pellicola, per essere restituite, tutte insieme, a un presente dove non fanno più scandalo. Giusto qualche fremito per il bacio gay al Colosseo, il bacio bestiale, dato a un cane da Asia Argento in Go-Go Tales, e il bacio appassionato tra donne, Jessica Biel e Sarah Silverman, Monica Bellucci e Lavinia Longhi. E poi il concetto di proibito si applica ai ragazzi del Grande Fratello, a Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez sull'Isola dei Famosi, a Barbara Berlusconi su Novella, alle star che si lasciano andare pericolosamente in luoghi pubblici con persone diverse da mariti, mogli e fidanzati, fidanzate. A tutti bisognerebbe consigliare la lettura del delizioso libretto di Alain Montandon, Baldini Castoldi Dalai Editore, Il bacio, dove si spiega proprio tutto, quanti muscoli si mettono in moto, quanta saliva, quanti impulsi arrivano al cervello, e naturalmente le tipologie, i momenti migliori, le occasioni, le lacrime, nell'addio ci vogliono, e i miti. Scoprirebbero tutti, anche gli inglesi, che baciare riduce lo stress, migliora l'umore, colora la vita. Anche se qualcuno perde il treno. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Rosalina Salemi, Vietato baciarsi, il treno non aspetta, dalla Stampa del 18 febbraio. Nel suo romanzo Danza macabra, Dan Simmons racconta la storia di Nina, Wilhelm e Melanie, tre giovani che hanno il potere di impossessarsi della volontà delle persone e costringerle ad agire in completa sottomissione. Sono vampiri della mente, che si nutrono della violenza di cui è impregnata la cultura contemporanea, come spiega la narratrice Nina in questo passaggio. Il continuo aumento della violenza moderna desta in me un senso di disperazione a cui a volte mi capita di cedere. Quella profonda fossa informe di disperazione che Hopkins definiva il conforto della carogna. Osservo il mattatoio in cui l'America si è trasformata, gli attentati condotti in modo disinvolto contro papi, presidenti e innumerevoli altri, e mi chiedo se là fuori ci siano molti altri dotati del talento o se il massacro sia semplicemente diventato il modo di vivere moderno. Tutti gli esseri umani si alimentano di violenza, esercitando in qualche misura il loro potere su altri, ma pochi hanno potuto assaporare il potere estremo che noi conosciamo. Essendo privi del talento, pochi conoscono infatti il piacere senza pari che deriva dal togliere la vita a un essere umano. Non essendone dotati, anche quei pochi che si alimentano della vita non possono assaporare lo scorrere delle emozioni nel cacciatore e insieme nella vittima, l'esaltazione assoluta dell'assalitore che si è portato al di là di tutte le leggi e di ogni punizione, la strana, quasi sessuale sottomissione della vittima in quegli ultimissimi secondi di verità, quando tutte le alternative vengono cancellate, ogni futuro è precluso, tutte le possibilità sono cancellate da un esercizio di assoluto potere su un altro essere umano. La violenza moderna mi induce alla disperazione. Dispero di fronte alla sua natura impersonale e a quella sua indifferenza che l'ha resa accessibile a così tante persone. Possedevo un televisore, ma l'ho venduto quando la guerra del Vietnam era al suo culmine. Quelle fugaci immagini di morte, rese distanti e asettiche dalle telecamere, non significavano nulla per me, ma credo significassero qualcosa per questo bestiame che mi circonda. Quando la guerra è finita, insieme al conteggio dei morti offerto ogni notte dalla televisione, la gente ha continuato a chiedere immagini di quel genere, sempre di più, e a fornirle, in mediocre abbondanza di massa. Sono stati gli schermi cinematografici e le strade di questa dolce, morente nazione. È un tipo di dipendenza che conosco molto bene. Avete ascoltato un brano dal libro di Dan Simmons, Danza Macabra, Gargoyle Editore, 952 pagine, 19,50 €. Letture di Radio 24. La recente escalation di violenze commesse dai romeni riaccende ancora una volta il dibattito sulla pericolosità degli immigrati. Periodicamente l'opinione pubblica si allarma per il problema della criminalità e della violenza. I giornali soffiano sul fuoco. Il governo tenta di fare qualcosa. Ed ieri l'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto antistupri. Maggioranza e opposizione tirano acqua ai rispettivi mulini. Quando al governo c'è la sinistra e all'opposizione c'è la destra, il copione è già scritto. La sinistra minimizza e la destra drammatizza. Quando invece, come oggi, i ruoli di governo e opposizione sono invertiti, il copione va in crisi. La sinistra vorrebbe cavalcare la paura, ma non può farlo perché i suoi riflessi condizionati buonisti le suggeriscono di sdrammatizzare. La destra, per contro, vorrebbe tanto drammatizzare, ma deve trattenersi perché è al governo e teme di essere considerata responsabile di quel che succede. Dopo i recenti casi di stupro a danno di donne italiane e straniere, siamo dunque tornati a farci le solite domande. La criminalità è in aumento? Gli stranieri delinquono di più degli italiani? I romeni hanno una speciale vocazione per i reati di violenza sessuale? O sono tutte percezioni? Sull'andamento della criminalità non si può dire molto. Con i dati finora disponibili, non definitivi e fermi al primo semestre 2008, possiamo solo fissare qualche punto. La criminalità è aumentata molto subito dopo l'indulto, più 15,1% in un anno, fra il primo semestre 2006 e il primo semestre 2007. Nel primo semestre del 2008 è diminuita rispetto al 2007, presumibilmente a causa dell'elevato numero di indultati recidivi, liberati e poi riacciuffati dalle forze dell'ordine, ma la diminuzione non è stata sufficiente a compensare l'impennata del 2007, cosicché due anni dopo l'indulto il numero di delitti era un po' maggiore di quello pre-indulto. Per esempio abbiamo più rapine, più 4,9%, più omicidi volontari consumati, più 7,7%, più truffe e frodi informatiche, più 10,7%. In breve, le carceri sono strapiene, esattamente come lo erano prima dell'indulto, 60.000 detenuti, e il numero di delitti è un po' maggiore di allora. Sul tasso di criminalità dei cittadini stranieri è difficile lavorare con statistiche precise, perché si ignora il numero esatto degli irregolari, però la situazione è piuttosto chiara. Il tasso di criminalità degli stranieri regolari è 3-4 volte quello degli italiani. Il tasso di criminalità degli stranieri irregolari è circa 28 volte quello degli italiani, dati 2005-2006. Fino a qualche anno fa, la pericolosità degli stranieri, pur restando molto superiore a quella degli italiani, era in costante diminuzione, ma negli ultimi anni questa tendenza sembra essersi invertita. La pericolosità degli stranieri non solo resta molto superiore a quella degli italiani, ma il divario tende ad accentuarsi. Resta il problema della violenza sessuale e degli stupri. Qui la prima cosa da dire è che i mass media sono morbosamente attratti dalle violenze interetniche. Lo straniero che stupra un'italiana, l'italiano che stupra una straniera, e riservano pochissima attenzione alle violenze intraetniche, che a loro volta sono spesso intrafamiliari, donne violentate da padri, zii, suoceri, partner più o meno ufficiali. Ma i mass media, a loro volta, amplificano una distorsione che è già presente nelle denunce. L'assalto di un branco di adolescenti a una ragazzina all'uscita da scuola ha molte più probabilità di essere denunciato di quante ne abbiano le vessazioni di un padre padrone, non importa qui se dentro un campo nomadi o in una linda villetta piccolo borghese. Basandosi esclusivamente sulle denunce, quel che si può dire è che la propensione allo stupro degli stranieri è 13-14 volte più alta di quella degli italiani, dato 2007, e che, anche qui, il divario si sta allargando. L'ultimo dato disponibile, 2007, indicava un rischio relativo, stranieri rispetto a italiani, cresciuto di circa il 20% rispetto a 3 anni prima, 2004. Infine, i romeni. In base ai pochi dati fin qui resi pubblici, la loro propensione allo stupro risulta circa 17 volte più alta di quella degli italiani e una volta e mezza quella degli altri stranieri presenti in Italia. Lo stupro non è però il reato in cui i romeni primeggiano rispetto agli altri stranieri. Nella rapina sono 2 volte più pericolosi degli altri stranieri e 15 volte rispetto agli italiani. Nel furto sono 3-4 volte più pericolosi degli altri stranieri e 42 volte rispetto agli italiani. Nel tentato omicidio e nelle lesioni dolose, invece, sono leggermente meno pericolosi degli altri stranieri, ma comunque molto più pericolosi degli italiani, 7 e 5 volte di più rispettivamente. Si può discettare all'infinito sul perché il tasso di criminalità degli stranieri, anche regolari, sia così più alto di quello degli italiani. Razzisti e xenofobi diranno che l'alta propensione al crimine di determinate etnie dipende dai loro usi e costumi, se non dal loro DNA. Ma la spiegazione più solida, a mio parere, è tutta un'altra. Se gli stranieri delinquono tanto più degli italiani, non è perché noi siamo buoni e loro cattivi, ma perché i cittadini stranieri che arrivano in Italia non sono campioni rappresentativi dei popoli di provenienza. Con la sua giustizia lentissima, con le sue leggi farraginose, con le sue carceri al collasso, l'Italia è diventata la Mecca del crimine. Un luogo che, oltre a una maggioranza di stranieri per bene, attira ingenti minoranze criminali provenienti da un po' tutti i paesi e, così facendo, crea l'illusione prospettica dello straniero delinquente. Perciò hanno perfettamente ragione gli italiani che hanno paura degli immigrati, ma hanno altrettanto ragione gli stranieri onesti che si sentono ingiustamente guardati con sospetto. I cittadini italiani privi di paraocchi ideologici non possono sorvolare sul fatto che uno straniero è 10 volte più pericoloso di un italiano, ma farebbero ancor meglio a rendersi conto che ogni comunità straniera è costituita da 2 sottopopolazioni distinte: gli onesti attirati dalle opportunità di lavoro e i criminali attirati dalla debolezza delle nostre istituzioni. Il problema è che le 2 sottopopolazioni non si possono distinguere a occhio nudo e quindi, in mancanza di segnali che consentano di separarle, la diffidenza diventa l'unico atteggiamento razionale. Un atteggiamento che non si supera con le lezioncine di democrazia, tolleranza e senso civico, ma solo rendendo l'Italia un paradiso per gli stranieri di buona volontà e un inferno per i criminali, stranieri o italiani che siano. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luca Ricolfi, Gli stranieri e la Mecca del crimine, dalla Stampa del 12 febbraio. Sulle pagine del suo blog, il procuratore delle Marche elenca alcune delle sentenze più assurde emesse dai colleghi. Ma ai magistrati non piace essere criticati e la pagina web viene chiusa. Un tizio entra in un caffè e chiede un bicchiere d'acqua naturale. Il barista gliela versa da una bottiglia riportante un'etichetta di una notissima marca. Al primo sorso, il cliente si accorge che qualcosa non va e si sente male. Aveva appena bevuto detersivo tossico per lavastoviglie. Si apre il processo per commercio di sostanze alimentari contraffatte. La sentenza? Assoluzione del barista perché non ha somministrato una sostanza alimentare contraffatta, ma direttamente una sostanza tossica non destinata all'alimentazione. Come dire, se ti cade una goccia di detersivo nell'acqua minerale, allora ne rispondi penalmente. Ma se servi liquido per lavastoviglie puro, allora la fai franca. Non è una barzelletta, è una delle tante chicche giudiziarie, questa appena raccontata addirittura della Cassazione, riportate nel blog del procuratore generale delle Marche Gaetano Dragotto, che è stato per questo convocato dal CSM, deferito alla Corte di Cassazione e al ministro della Giustizia Alfano, e costretto a oscurare la pagina internet. Ma Dragotto ha uno spiccato e sagace senso del sarcasmo, come quando riporta le parole di un giudice definito immaginifico, il quale precisa in una sentenza che la narrazione dei fatti ha trovato riscontro nelle oculari deposizioni testimoniali di Caio. Commento del magistrato blogger quando si dice «occhi parlanti». Ma ve n'è anche per la cultura giuridica terzomondista. Protagonista della vicenda, un senegalese scovato a vendere le solite borse contraffatte. La sentenza del giudice, senza commento. Si concedono le attenuanti generiche perché l'imputato è africano e l'Africa è povera. Dalla contraffazione all'autocertificazione, falsa. La motivazione del togato, tenuto conto delle modalità del fatto, si stima equa una condanna all'imputato alla pena di un anno di reclusione. Il dispositivo finale con conseguente condanna, per questi motivi, visti gli articoli, eccetera, eccetera, lo condanna alla pena di mesi 3 di reclusione, quando si dice la coerenza. E se al primo imputato la solida coerenza tra la motivazione e il dispositivo ha portato fortuna, al secondo imputato lo scambio dell'ordine degli addendi va peggio. Un giudice calcola in motivazione la pena ridotta per la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato. La determina in 3 mesi e preannuncia lo sconto di un terzo della pena. Dispositivo finale? Si condanna l'imputato a 3 mesi di reclusione. Lo sconto è rimasto nel bancone togato. Il commento del dottor Dragotto. Il calcolo della pena era talmente complicato che il giudice ha avuto bisogno di ricorrere a quella norma che, per i processi più complessi, permette al giudice di depositare la motivazione in 90 giorni. Spazio agli esibizionisti. Tizio si sbottona i pantaloni e mostra il proprio pene a una bambina di 4 anni seduta in macchina. Rinviato a giudizio, l'esibizionista si difende dicendo che soffre di una patologia alla prostata e aveva bisogno impellente di fare pipì. Il giudice lo assolve con questa motivazione. L'uomo, pur trovandosi in una delle più trafficate vie della città, a causa di una patologia alla prostata documentata da una cartella clinica, non sarebbe riuscito a trattenersi dalla necessità di urinare. Le domande di Dragotto, che ha titolato la scabrosa storiella giudiziaria «La prostata salvifica», perché il giudice non ha verificato il motivo per cui Tizio non ha urinato? E perché si è rivolto verso il finestrino dell'auto e non verso il muro? Ma c'è posto anche per le storie d'amore e le truffe nel blog del magistrato marchigiano. Una ragazza follemente innamorata del suo fidanzato gli concede un prestito sostanzioso, lasciandosi anche convincere dalla notizia falsa che l'uomo stava per assumere un importante incarico lavorativo. Al dibattimento, la giovane innamorata ammette di aver scoperto che il fidanzatino, Felice, era felicemente fidanzato anche con un'altra. Il giudice lo assolve con queste parole. È forte nel giudicante la consapevolezza che l'unico raggiro ipotizzabile in questo caso sia stato quello inesorabile e antico, architettato da Cupido. Tale raggiro non ha rilevanza per il reato in esame. Si impone allora l'assoluzione per insussistenza del fatto. Così è deciso. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Roberto Paradisi «Mai dire giustizia» sul blog del giudice «Le papere dei colleghi», da Libero del 21 febbraio.